YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube anche in questi giorni così festivi. L'appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche un po' il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web. In questi giorni di vacanze, ma ci prendiamo anche noi qualche giorno di vacanza, pochi, per tornare poi con il nuovo anno, avremo un sacco di novità. E quindi cosa facciamo? Riascoltiamo i momenti migliori o peggiori di RadioTube? Ecco, sì, riascoltiamoli, anche perché vogliamo dire che il 2013 è stato l'anno della social TV. Beh, in Italia è arrivato pezzissimo. Sì, no, è proprio il 2013, segniamolo nel calendario. Odissea nell'ospizio proprio. Mamma mia, le freddure delle feste. Promettiamo di non parlare di cibo, si sa, durante le feste si mangia. No, però si guarda soprattutto la televisione, noi la riguardiamo alla radio e voi potete scriverci a @MartaCagnola, @DBellasio e potete usare anche l'hashtag notissimo. Cancelletto Radio Tube. Parliamo subito di un compleanno, riparliamo di un compleanno. L'abbiamo detto che noi l'avremmo fatto per primi e poi l'avrebbero fatto tutti gli altri. E adesso così sembra stato, che arriviamo per ultimi. Ma noi fingiamo di arrivare per ultimi perché in realtà noi eravamo arrivati prima il 30 novembre scorso. E soprattutto col protagonista assoluto, Billo. Billo. Avevamo iniziato a festeggiare i 30 anni di Vacanze di Natale, il primo Vacanze di Natale, e il 30 novembre scorso l'abbiamo fatto così. Parliamo di cinema. Sì, no, ci sono. C'è un compleanno importantissimo, sì, di un film che ha cambiato la nostra vita. Ah, un coming out. Diciamo che ha segnato la nostra generazione. Siccome ne parleranno tutti, noi anticipiamo tutti e ne parliamo per primi a Radio 24. E soprattutto ne parliamo con il maestro. Con una leggenda. No, io veramente. Veramente, lui lo sa, sono emozionato. Allora lo salutiamo. Buonasera Jerry Calà, buonasera Jerry. Mi sono emozionato anche io a sentire tutte queste cose qua. Allora lo dico subito. Esagerati. Chiocciola J Calà Original, perché noi diamo sempre gli account di Twitter per seguire tutto quello che fa Jerry Calà, anche perché Jerry fa sempre un sacco di cose e poi ne parleremo perché c'è insomma adesso una grande tournée, ma ne parliamo tra poco. Jerry, lo dobbiamo dire, 30 anni da Vacanze di Natale, un film che noi conosciamo a memoria. Soprattutto le battute di Jerry Calà, ovviamente. Soprattutto le battute di Jerry. Ne ascoltiamo subito una, così la rinfreschiamo. Ma una? Io ne ascolterei 45, Valeria. Cominciamo una, Valeria ce ne regala una. Eccola qua. A proposito, quant'è che mi dai quest'anno a settimana? Sai, c'ho bisogno. Attraverso un momento no. Mezza zucca alla settimana. Ma come? 10.000 meno dell'anno scorso? Prendere o lasciare? Prendo. Sta a sentire, Gershwin. Se quest'anno mi combini i soliti casini con le clienti, anda, ti sostituisco con l'organista della chiesa. Sì, e poi cosa fai? Vai col piattino a ritirare le offerte? Che poi cosa ci troveranno le donne in un pupazzo come te, ma... Non sono bello, piaccio. Qui c'è il coro su Non sono bello, piaccio, che è anche il titolo dello show che Jerry Calà ha portato finora in teatro. Gli chiederemo poi se si chiamerà ancora così quello che Non sono bello, piaccio. Qui c'è un coro sulle battute di Vacanze di Natale, le sappiamo tutte. Jerry, ma per te cosa rappresenta questo film? Perché è un po' come quando un cantante fa una canzone talmente grosso, un successo così grosso che gli chiedono sempre quella. Per te cosa rappresenta 30 anni dopo Vacanze di Natale? Ma rappresenta senz'altro un... quello lì è stato il punto di partenza, è un punto di partenza che però automaticamente, grazie al mito che è diventato questo film, diventa contemporaneamente anche un punto d'arrivo, cioè Billo è partito 30 anni fa, ma ogni tanto ritorna Billo, no? Ritorna a cantare, la gente lo rivuole sentire... vuole sentire ancora quelle battute, e posso permettermelo di dire 30 anni dopo, era un gran film, era un affresco di un periodo fatto con una leggerezza e con una, anche con una cattiveria, voglio dire, nei confronti di alcuni ceti sociali, voglio dire il generone romano, no, che campeggiava nella cortina del 1984, è stato veramente un grande affresco, un documento, no? Se trovassero Vacanze di Natale in una tomba nel 3500, capirebbero benissimo cosa succedeva nella nostra epoca. Siccome io ero e sono drogato, ho una curiosità da sempre: quanto c'era di vostro nelle battute e quanto invece era il soggetto che dovevate recitare? C'era tantissimo di nostro, perché la genialità di Carlo Vanzina come regista, unita a quella di Enrico, che scriveva studiando i personaggi, faceva sì che noi sul set ci trovavamo proprio a super nostro agio e avevamo anche modo di improvvisare, voglio dire, di proporre, ecco, più che improvvisare, di proporre. Nello stesso tempo però stavano attenti a che non esagerassimo, perché comunque c'è una grande differenza tra il cabaret che si fa a teatro e il cinema. Jerry, hai citato il teatro, quando e dove ti veniamo a vedere? Allora, qua l'affare si sta ingrossando, perché dopo il grande... Non nel senso buono. No, ma va benissimo. Ma va bene. Abbiamo detto di peggio. Ho fatto questo test teatrale al Teatro Nuovo di Milano, no? Che è un bellissimo teatro in Piazza San Marco a Milano, dove è successo il finimondo, cioè a parte l'esaurimento dei biglietti, quindi abbiamo già messo in vendita un'altra data, il 3 febbraio, è successo qualcosa che il direttore del teatro non si aspettava, perché la gente rideva e poi alla fine ballavano tutti, facevano i trenini dentro il teatro, nei palchetti, insomma. Teatralmente facciamo il 28 febbraio a Padova, Teatro Geof di Padova. Adesso ho appena contrattualizzato il Brancaccio di Roma il 4 marzo e niente, poi faremo Napoli, Bologna, insomma. Nel frattempo però, a parte il teatro, voi sapete che io mi esibisco in tantissimi club italiani, discoteche varie, quindi insomma avete modo, come dicevate prima, consultando il mio Twitter Jay Calaorigine, di sapere, era anche la mia pagina ufficiale di Facebook, Jerry Calà pagina ufficiale, di sapere sempre dove trovarmi. Piaci e sei social. Non è bello, ma piace. Sono anche social, sì, mi diverto molto. E poi stare sui social vuol dire anche vivere il proprio tempo. Cioè io ho 62 anni, però insomma riesco sempre comunque a comunicare con i ragazzi alla stessa maniera e ad avere un linguaggio per cui sono... Sei sempre Billo. Sono sempre, sì, ma sono Billo però del 2013 e fra poco 14. Jerry, che meraviglia averti avuto, quindi @ Jay Calaorigine per chi ti vuole seguire su Twitter. Grazie Jerry, i social impazziranno quando tutti cominceranno a parlare di Vacanze di Natale dei 30 anni, ma noi abbiamo cominciato adesso. Grazie Jerry. Finisco con una frase malinconica, no? Che dicevo nella scena con la povera Moana Pozzi. Cosa dicevo? Vediamo se siete preparati. No, quando facevo Cilecca dicevo, vorrà dire che invece di un bianco Natale farò un Natale in bianco. Daniele Bellasio promosso. Grazie Jerry. Ciao grande. Ciao e tanti auguri per le feste. Rieccoci con RadioTube, Daniele, con il meglio di RadioTube. Rimaniamo al 30 novembre scorso, sembra passato un secolo. Io ti dico una parola: decadenza. Sembra ecco, passato. Decadenza. Ma se è nata la social TV, è morto il talk show, l'altro grande interrogativo. Il tormentone. La decadenza ci ha fatto interrogare su questo fenomeno, che forse appunto è un po' in declino del talk politico. Secondo me sarà un tormentone anche del 2014, è morto il talk politico, chissà. Vediamo, e poi ci sono le elezioni, quindi dovrebbe tornare un po'. Insomma, la politica, l'informazione e la TV noi abbiamo affrontato con i crismi della scienza questo argomento, perché allora, tu sei molto secchiona, quindi poi mi piacciono i numeri, mi piacciono. Allora, abbiamo parlato della decadenza e del talk show politico, lo dicevamo il 30 novembre scorso, ci riascoltiamo insieme, Daniele, come l'abbiamo parlato? Sentiamoci. Ritorniamo insieme con RadioTube, ritorniamo insieme con Chiocciola di Bellasio, Chiocciola Marta Cagnola, visto che ormai lo sapete che ci trovate sempre su Twitter, anche con l'hashtag RadioTube, cancelletto RadioTube. Parliamo di questa decadenza, di questa decadence, come la ci decadenza, piace parlare. La decadenza della politica, è stata di un politico, di un politico o sì. Della politica, anche un po' della politica, anche un po' della politica, anche un po' della politica in TV, anche un po' della politica e anche un po' della TV in politica, e anche un po' vuoi un po' di numeri? Diamo un po' di numeri? Diamo i numeri. Allora, diamo i numeri. Lo speciale Porta a Porta sulla decadenza ha interessato in prima serata l'8,52% dei telespettatori. La gabbia con Gianluigi Paragone il 3,68% di share. Lo speciale Quinta Colonna il quotidiano il 3,45%. C'era la Juve però, no? C'era la Juve, la partita di Champions League Juventus-Copenaghen 14,1%, le tre rose di Eva 2 Tatan 19,05%. Quindi alla fine la fiction che appassiona di più non è più quella della politica. Sebbene i protagonisti siano in un momento particolarmente topico, forte. Sono in un momento forte. Io ascolterei un po' allora come queste televisioni hanno parlato della decadence. Della decadence. Sentiamo partiamo come con l'ha la fatto tua trasmissione preferita. La tua trasmissione preferita è tu stai con la gabbia, io sto con la belva. La belva ci manca tanto. Ecco come ha iniziato a parlare della decadenza la gabbia. Buonasera. Alle 17:42 Silvio Berlusconi è tornato a essere Mr. B, per usare un appellativo molto in voga in queste ore. Mr. B, semplicemente perché è decaduto ed è decaduto dopo questo voto. Vediamo la clip iniziale per entrare subito in partito. Bene. Mr. B è anche il titolo della puntata. Parliamo anche e soprattutto di questa decadenza e che effetti avrà sulla scena politica. La decadenza. Un sacco di gente che ha una paura nera di non avere più il materiale primo della sua principale occupazione, no? Cioè dopo Berlusconi. Ma secondo me stiamo per sentire delle belle. Voglio farti sentire anche un pezzettino di quello che è andato in onda a Porta a Porta, La terza camera, che ci fa capire come alcuni politici, come Pier Ferdinando Casini, siano pronti a mollare gli ormeggi, a veleggiare verso una nuova repubblica. Sono inebriati, no? È bellissimo questo aroma di neodemocristianità. E lo stesso Bruno Vespa non ci poteva credere. Ascolta questo frammento di Porta a Porta. Abbiamo fatto credere ai cittadini italiani che la democrazia è Twitter e tutto il resto. Guarda, battiamo il marciapiede da una trentina d'anni, caro Giarrusso. Possiamo andare fuori quando ti pare, guarda. Andiamo, facciamo una stasera dopo la trasmissione. No, fidati. Lo lascio a voi. Fidati che battiamo anche noi, fidati. Questo frammento di saggezza sarà molto ripreso. L'abbiamo ripreso anche noi, sarà molto ripreso, è bellissimo. Allora, dobbiamo un po' riprendere le misure di questi politici con questo nuovo volto. Il pubblico ha dimostrato di non essere più tanto affezionato a queste trasmissioni televisive, o forse in questo periodo non ne può più. Questo è ancora da capire. Certo è che però interessano ancora molto in rete le vicende politiche. Sì, intanto diciamo che Pier Ferdinando Casini ha detto: abbiamo fatto credere che la democrazia è Twitter. Però intanto su Twitter c'è. Su Twitter c'è una foto notevole e tutto il resto. Quindi insomma. Certo, sì. No, c'è la legge di Freccero, no? Ne abbiamo già parlato forse una volta. La legge di Freccero è: più se ne parla su Twitter, meno interesse in televisione. Quindi di politica se ne è parlato tantissimo quel famoso giorno della decadence, però evidentemente interessava meno in televisione. Ha stufato la politica in TV? oppure la TV, la politica viaggia meglio su Twitter? Beh, intanto cerchiamo di capire com'è andata in rete e ci colleghiamo con Vincenzo Cosenza di un osservatorio particolarmente importante, l'osservatorio di Blogmeter, The Social Media Intelligence Company. Buonasera a Vincenzo Cosenza. Ciao, buonasera. Buonasera. Vincenzo, allora, quel pomeriggio Twitter e Facebook in realtà si sono scatenati. Cos'è successo? Sì, si sono scatenati e diciamo la decadenza di Berlusconi è stato forse l'evento politico che ha generato più conversazioni in rete, sicuramente da quando le misuriamo noi ormai da 7 anni, ci sono state 250.000 citazioni sul tema sui 2 social network principali, quindi Facebook e Twitter. Su Facebook sono state oltre 100.000 le citazioni di Silvio Berlusconi. Su Twitter tutto il tema della decadenza ha raccolto più di 155.000 cinguetti provenienti da 43-44.000 quasi account. 17-42, momento topico. O 43, perché o 43, i giornali perché si sono poi divisi, sì, in questo nuovo bipartitismo. C'è chi sostiene 42 e chi 43. A me 42 piaceva il numero pari. Vabbè, insomma, in quel momento tutti si sono scatenati. Io leggo dai dati di Blogmeter il picco di 1163 tweet al minuto. Vincenzo, è una cifra importante? Sì, una cifra importante, come Sanremo, una puntata di maggior successo di X Factor, cioè il punto di massimo climax in cui tutti si scatenano a dirla loro, a rilanciare magari i tweet di fonti giornalistiche, a scrivere qualche commento spesso ironico, sarcastico, è tipico di questi fenomeni in rete. Infatti il tweet più rilanciato, dite sempre voi di Blogmeter, è stato quello della community satirica Spinoza, che ha raccolto oltre 1000 retweet, un tweet appunto che veniva fuori da Spinoza. Abbiamo paura, diceva Daniele Bellasio, che non ci sia più materiale per far discutere. Daniele, io ti farei sentire però qualcos'altro che è successo ancora questa settimana, sì, non sentiamo, quella sera sentiamo. Lì. Ma secondo me, sentiamo cosa è successo da Santoro. Sentiamolo. Perché da Santoro si sono sfidati ancora, proprio perché dobbiamo capire cosa succederà dopo la décadence. Daniela Santanché e Roberto Formigoni, sentiamo vediamo insieme alla radio le scintille scoppiate da Santoro. Ce n'è stata qualcuna anche per il conduttore, eccoli qua. Voglio finire soltanto una persona come Berlusconi, una persona come Berlusconni che si paga le vacanze e si compra le barche, intanto è questo. Ha Berlusconi sempre amato sentire, no, io non allora, so ancora quello Berlusconi, ha sempre sentito e poi ha fatto quello che intanto vuole. Berlusconi è l'uomo che si compra, paga le vacanze, si compra le barche con i propri soldi, col frutto del proprio lavoro e non si fa mantenere da nessuno. Prima questione, sì. La seconda cosa, sai che scopriva che qualcuno pagava la ragazza Berlusconi. No, guarda, io parlo a suocera perché duoro intenda. È troppo così. Vedo che lei è un po' lento. Tu stasera, dici un'altra balla, cara voglio Daniela. Che lei è un po' lento. Tu dici un'altra balla, cara Daniela. Vedo che lei è un po' lento. Sei un po' lento. Ciao Santoro, vedo che lei è un po' lento. La Santanché scatenata ne ha per tutti. Intanto ho trovato il tweet retweetatissimo di Spinoza, che era: sarebbe stato meglio sconfiggere Berlusconi per via politica, è davvero un peccato che sia un delinquente. Questo è il tweet di Spinoza, arrivato da _ Edelman, perché Spinoza, come sai, è una comunità, sì, è una e community. Tutti arrivano, mandano i loro tweet satirici, quindi è una grossa raccolta, 1204 retweet fino a questo momento. Vincenzo, hai citato Sanremo e X Factor come momenti topici, quindi alla fine politica e televisione sono quello che scalda di più la rete nei social. Sì, assolutamente sì, soprattutto poi quando le due cose si mescolano è il massimo, quindi la social TV abbinata alla politica è esplosiva. Fu esplosiva la puntata di Santoro con Berlusconi protagonista, che anche quella fece segnare un record per quanto riguarda le trasmissioni televisive, i talk politici, e anche lì il protagonista appunto era Berlusconi, quindi sembra proprio che sia lui il catalizzatore di molte delle discussioni di noi italiani in rete. Io ho la teoria questa, un po' strana, cioè Secondo me, quando uno fa una scorpacciata di commenti sull'evento della giornata sul social network, poi si sente sazio e quindi non ha più poi voglia di guardarlo anche in televisione, perché o vanno assieme social network e TV, oppure se i social network arrivano troppo prima danno questa sensazione di scorpacciata già avvenuta e quindi uno dice: ma perché mi devo guardare la prima serata? Cosa ne pensi, infatti, Vincenzo? Sono completamente d'accordo con te, Daniele. In realtà poi c'è anche un pubblico un po' diverso tra televisione e social media, nel senso che anche il successo di Le Tre Rose di Eva e di tutte le altre gli altri sceneggiati televisivi ci mostrano come ci sia un pubblico un po' diverso. Io lo vedo anche dai dati relativi ai tweet poi sulle trasmissioni televisive, che non coincidono mai o quasi mai con la trasmissione con audience della sera prima, ecco. Ringrazio Vincenzo Cosenza che è stato con noi. Diamo anche il suo account, chiocciola Vincos, certo, per chi vuole seguirlo su Twitter, chiocciola Blogmeter per chi vuole seguire questo istituto di ricerca particolarmente attento, sì, e appunto abbiamo detto da 7 anni si occupa di monitorare quello che succede in rete, in particolare nei social network. Grazie Vincenzo. C'è tempo per parlare della Roma? No, non c'è tempo purtroppo. Mannaggia. Non c'è tempo per Hai parlare pure della tua squadra. No, non c'è tempo. Ci ritroviamo tra poco. Anche Valeria in regia dice non c'è tempo. Non c'è tempo. Non c'è a tra tempo. Poco. C'è mai tempo. A tra Ciao. Poco con RadioTube. Ciao Vincenzo. E rieccoci insieme a Radio Tube. Daniele, rifaccio la presentazione, perché sai, magari durante le feste ci ascolta qualcuno che non ci ha mai sentito. Qualcuno di nuovo. Qualcuno di nuovo. Allora spieghiamo che Radio Tube è l'appuntamento di Radio 24 che sempre a quest'ora con Daniele Bellasio, con Marta Cagnola, vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana tra TV, web TV e social TV. Questa è una puntata speciale. Quindi noi praticamente oggi facciamo un meglio di del peggio di. Un meglio di del peggio di della televisione vista attraverso i social. Alla radio. Questo è un triplo top. È un caos pazzesco. Ora della fine del 2014 vorrei capire di che cosa ci occupiamo. E capire se è vero che il talk show politico è morto. È morto, esatto, esatto. Capire un sacco di cose. Oppure se per esempio la televisione può sperimentare. Tu sai che io sono favorevole ai tentativi a prescindere, no? Sì, ecco. concordo. E quindi provare. C'è stato un tentativo alla fine del 2013, importante, perché ha parlato di temi legati ai rifugiati, legati alle zone lontane da noi, zone di frontiera, zone di guerra, in prima, dico prima serata su Rai 1, cioè un esperimento di un coraggio inaudito. Un esperimento che aveva scatenato polemiche già dai mesi precedenti, le polemiche d'estate per una trasmissione che poi è andata in onda ai primi di dicembre, polemiche ovviamente sui social, perché se il 2013, come hai detto tu, è stato un anno della social TV e noi siamo esattamente sul pezzo parlando di social TV, le polemiche erano state le care vecchie polemiche preventive. E poi com'è andato questo mission? Per me benissimo, sai che io non sono un affezionato dell'audience, sei tu la scienziata. Beh, i numeri non erano stati proprio brillantissimi. Io avevo premiato il coraggio e la volontà di fare servizio pubblico. Tu eri d'accordo con me. C'era qualcuno che però ha stroncato mission in maniera così totale, perentoria. E tu un po' stavi anche dalla Ma sua no, parte. Non stavo, mi piaceva ascoltare il confronto. Mi è piaciuto questa lotta. Così sono stata a bordo ring per vederti accapigliare un po' con l'ospite che tra poco risentiamo. È stato un bellissimo momento di RadioTube. Che poi è uno dei tanti tuoi conduttori preferiti di questa splendida ogni tanto radio, mi no? capita di dire che è il mio conduttore. Ognuno. No, io ho svariati conduttori preferiti, però tra i miei conduttori preferiti il mio conduttore preferito è Gianluca Nicoletti. Ma io sono il tuo miglior aspirante conduttore preferito, no? Tu sei il miglior co-conduttore mio preferito. Anche unico. Allora, 7 dicembre scorso questa puntata di RadioTube era dedicata... Ma non abbiamo detto come si chiamava, no, questa cosa? Mission, l'abbiamo mission, detto? Mission Impossible. Ma veramente impossible visti gli ascolti. Comunque, 7 dicembre scorso la puntata imperdibile con un duello tra il mio co-conduttore di Radio Tube preferito duello. Daniele Bellasio e il mio Fiore. Conduttore preferito di Radio 24 Gianluca Nicoletti, eccoli qui. Abbiamo parlato di politica, adesso yes. Basta politica, non parliamo di temi controversi, sarà no. Un blocco della trasmissione senza polemiche e generalista. È molto generalista, parliamo solo di Rai. Dirai. Dirai. Qua ci deve essere un refuso però sul dato di audience che hai detto. Perché tu... No, dici malissimo. È impossibile. Beh, insomma, malissimo. Non è andato benissimo. Mission, che era... Ma come? Ha vinto assolutamente. Non ha vinto assolutamente. No, dai, allora, dai, dimmi ha conquistato la verità. 2.165.000 spettatori, pari all'8-16%, la trasmissione più attesa e sulla quale sono nate più polemiche prima che andasse in onda, forse una delle più bersagliate dalle polemiche. E perché preventive. Polemiche? Ne parleremo tra poco. Battuta dalle Tre Rose di Eva 2, 5.445.000 spettatori, pari al 20,35%, su Rai 2 Inter Trapani. E vabbè, io non l'ho guardata, eh. Ho guardato infatti, Mission. Ma infatti sei riuscito a non guardare l'Inter? Ma no, ma 8,85%. Questa. E poi vabbè, insomma, il resto insomma, ma il servizio pubblico vince quando fa servizio pubblico, no? Io parlerei, intanto ascolterei un pezzettino di Mission, vediamo. E poi ne parlerei anche con un ospite. Ascoltiamo cosa è andato subito in onda all'inizio di Mission, questa trasmissione contestatissima. Correvo e pensavo. Correvo e pensavo qual era il fucile che sparava verso di me. Ero piccolo, ho pensato di essere più piccolo delle pallottole, più veloce, ho pensato di essere invisibile, oppure inconsistente, come il fumo. Poi, quando ho smesso di correre, perché ero abbastanza lontano, ho pensato di andare via. Non volevo più avere paura, no. Per la prima volta su Rai 1, i rifugiati, gli sfollati di paesi come la Giordania, il Mali, Ecuador, la Repubblica Democratica del Congo, dove si stanno vivendo delle gravi crisi umanitarie, saranno i nostri protagonisti. Ci sono state molte polemiche su questo programma. Noi speriamo che si possano placare dopo che si sarà visto ciò che abbiamo preparato e lo abbiamo fatto con la massima onestà. Eccoli qua, Michele Cucuzza, Rula Gebreal, polemiche si sono placate? Io sono placate. Evocherei subito il nostro ospite che mi rende particolarmente felice perché lui è il mio conduttore preferito di Radio 24. Oggi sei sbilanciatissima. Sono sbilanciatissima, buonasera Gianluca Nicoletti. Ciao, lo dice a tutti naturalmente. Vabbè, no, a me non lo dice mai, quindi... Ma no, lo dice dietro le spalle così. Ah, ok. È una delle poche che parla bene dietro le spalle, incredibile, cioè è un evento rarissimo. Sono meno banale di altri. Assolutamente. Gianluca, sono finite le polemiche su Mission? Boh, che ne so, che mi importa, figurati, a me non mi cambia nulla. Ma penso di no, penso che non siano finite, perché ancora ci sono tanti capitoli aperti per le persone che hanno cuore questo programma. A me è molto divertito parlarne, perché è stata una storia divertente, e questa sorta di trailer clandestino, segreto, ci sono delle cialtronate assurde, la barale con un palo in mano che pestava del mortaio insieme a delle signore, donesse, donne stuprate vestite come delle comparse di Kirikou, che è un noto cartone animato per bambini, Emanuele Filiberto che tinteggiava uno sgabuzzino, non so, delle cose terribili. L'impressione che poi la Rai abbia fatto un velocissimo rimontaggio e ha fatto vedere una puntata dove c'era quello che era di meno indecente che avevano sotto mano, quindi Albano con le figlie, Candida Morvillo che alla fine si gli toglie i tacchi a spillo, gli mette un cappuccio in testa, sembra anche una giornalista come le altre, quindi è passata così. Sai, sono quelle cose, non è che protesteranno i rifugiati nei campi profughi se l'immagine che loro viene data è parziale, strumentale, lacrimevole, piagnona, con Cucuzza con un gatto morto in testa, con la Gebral che ce l'hanno messa perché è quel tanto di esotico. Ma perché quando lo metto una donna comunque di origine africana le mettono sempre gnocche? L'unica poverina che ha il fisico da mannequin che è il ministro Chienge, la prendono tutti in giro, anche se nemmeno apre bocca. Vabbè, poi se ti devo vuoi che faccio il cattivo, che dico sì, è stata una cialtronata, chiaramente tipica cosa Rai, fatta senza cultura, senza pensiero, senza idea, pensando che basta dire facciamo vedere i campi profughi sotto Natale con Albano che dice date i soldi e si è risolto il problema. Il tema è molto più complesso. Non si affrontano temi del genere in maniera così superficiale, così ridicola, ecco, con questa struttura che è ancora peggio. Guarda, avrei preferito fosse stato un reality cialtrone, almeno ci facciamo due risate. Aveva l'orrore del gatto spiaccicato, una cosa tanto orribile che devi guardarla per forza. No, era una sorta, è come quando la presidentessa della RAI ha fatto mettere i braghettoni nell'ultima edizione di Miss Italia, capito? Le ragazzine carine che stanno perché sono belle e sono sceme, però gli mettiamo i braghettoni così almeno non si vede l'infracoscia, ma dai su. Daniele, che devo dirti? No, bene. Perché Daniele invece ha lanciato l'idea di servizio pubblico. No, Daniele. Il problema è che se tu... In giro, ma che servizio pubblico? Non si prende per il... per i fondelli un problema così importante facendolo discutere da Cucuzza dal bagno con le figlie che tornano con la lacrimuccia dicendo è stata una grande esperienza per noi, ma cosa ce ne può importare a noi dell'esperienza di vita delle figlie di Albano? Perché la gente poi indotta a dare soldi ancora prima che cominciasse il programma, soldi per cosa? Per chi? Verso quale progetto? Si vedeva l'ONU, insomma, poi si può anche discutere sull'utilità di certi enti internazionali, però insomma era abbastanza chiaro chi era il referente di questo tentativo, questo esperimento. Complesso, sai, non è. No, ma questo non c'è dubbio. Il problema è che governative che si occupano di queste cose. Per se tu dico, io non sono competente in questa materia, mi sono consultato con persone che stanno tutto. È un universo talmente complesso che va preso con le molle innanzitutto, e poi non può essere tagliato così con il macete, fai vedere il bambino con la lacrimuccia all'occhio, la donna toccata. Ma io posso dire due cose positive che mi sono sembrate di vedere. La prima, intanto, che non era ideologico. Questo già è abbastanza importante, parlare di fatti che accadono non in casa nostra, ma in posti tutto sommato lontani anche soltanto dal nostro pensiero, senza avere una visione ideologica dell'esistenza. Non c'erano i buoni e i cattivi, cosa che io temevo molto. C'erano storie da raccontare. L'altra cosa è il coraggio, perché è ovvio che se tu metti in prima serata su Rai 1, nella rete più nazional popolare che ci sia forse in Europa, una trasmissione su questi argomenti, è chiaro che corri il rischio di apparire almeno in parte superficiale. Però forse sta nel coraggio di partire con un esperimento di questo tipo e di affinarlo anche con le critiche molto dure che hai fatto, per esempio, tu. L'esperimento a me pare coraggioso e devo dire che in alcuni frangenti, soprattutto nella storia di Albano e delle figlie, mi sembrava persino sincero. Vi butto un altro argomento sul piatto prima di vedervi ancora litigare, che mi piace particolarmente. Tentativi, esperimenti. Dopo Mission è andato in onda un altro nuovo tentativo, esperimento. Dopotutto, ascoltiamo Dopotutto. Benvenuti a Dopotutto non è brutto, un programma che racconta l'Italia non attraverso le sue bellezze classiche universalmente condivise, un po' come me diciamo, ma attraverso quelle insospettabili e inattese, come lui, Francesco Bonami, un uomo che sta all'arte contemporanea come Pippo Baudo al sabato sera anni 80. Il bello, signore e signori, non è assoluto, è così come il brutto, non esiste un brutto di tutti. Il bello e il brutto dipendono da come noi guardiamo le cose e da come le cose ci parlano. Ci sono cose belle che non ci dicono nulla e quindi sono brutte, ci sono cose brutte che ci dicono tante cose e quindi sono belle. Inauguriamo qui ed ora la nostra personale democrazia del gusto. Siamo a Venezia. Dopotutto non è brutto, abbiamo tolto delle seconde serate, che poi ormai sono quasi terze, a Bruno Vespa, le abbiamo date a Francesco Bonami, a GP Cucciari, per fare una trasmissione di cultura su Rai 1. Intanto hanno fatto un elogio artistico del Mose, una cosa stupenda secondo me. Siamo in uno dei tre cantieri del Mose, a Venezia si polemizza con chi vuole costruire in altezza, si polemizza con chi vuole costruire in profondità, e dietro di me il blocco di cemento che potrebbe essere un museo di arte contemporanea in costruzione, in realtà è uno dei tanti blocchi che sprofonderanno nel mare e ancoreranno una delle tre dighe del Mose per bloccare l'acqua a Venezia. Qui dietro di me una struttura che potrebbe essere una scultura di arte contemporanea, fantastica, veramente contemporanea, il risultato di un'ingegneria sofisticatissima, tutta italiana. Dove lo senti un elogio del Mose dal punto di vista artistico? E del ponte di Santiago Calatrava? Peraltro, salvato. Con Geppi, con i tacchi. Ha provato anche a camminare con i tacchi, no? Sì, fingeva di non sapere. Argomento che io padroneggio piuttosto bene. Gianluca, tu sei riuscito a resistere dopo Mission e vedere anche questo? No, io la guardo pochissimo, ma la televisione, solo che ho questo condizionamento, ma è dato dalla mia bassezza interiore. Ogni volta che vedo Geppi Cucciari vedo il bifidus che serpeggia dell'intestino, non riesco a prenderla più sul serio. La pubblicità è mostruosa. Beh, ha ragione. Poi mi è un po' ringrassata, che vuol dire che il bifidus mamma, non lo so. Ma come sei oggi? Non sono cattiva, ma mamma, ho chiamato, ma Gianluca, Gianluca apposta per sembrare più buona. C'è il bifidus lì per lì, capito? È chiaramente come ti prendi l'olio di ricino. Lì per lì un po'. Ma anche quando vedi Alessia è lo stesso discorso. Anche con la Marcuzzi? Ma sì, anche la Marcuzzi è ancora peggio. Ancora peggio? Se la vedo per strada vedo come una sorta di bifidus verde che mi gira dalla pancia. Non riesco più a controllarla come oggetto di desiderio. Hashtag bifidus. Secondo me ci cacciano prima di questa trasmissione. Per il bifidus, non per i giudici costituzionali. Per il bifidus. Purtroppo dobbiamo interromperci e ringraziare il mio conduttore preferito di Radio 24. Che sono io, no? Che è Gianluca Nicoletti. Buonasera Gianluca, grazie. Ciao a tutti voi, grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao. Ultimo blocco di questo primo speciale di RadioTube con il meglio di, in attesa di riprendere a gennaio con strabilianti novità, scoop, soprattutto grandi riflessioni sulla televisione e la social TV. A proposito di riflessioni, Daniele, una che ci ha appassionato, a parte quella dei talk politici che è il nostro cavallo di battaglia, la musica. Sì, perché soprattutto appassiona te, che sei una grande esperta di musica in partenza per Sanremo. La musica in televisione, alla radio e soprattutto su web. E tu ne hai voluto giustamente parlare mettendo assieme due temi molto distanti, o perlomeno all'apparenza distanti. Due esempi in cui la musica per una volta funziona, perché si dice sempre che non funziona, ma due esempi molto particolari. Uno, di musica in televisione, musica un po' particolare, televisione non generalista, e musica in televisione che non è televisione. Mi è piaciuta molto questa puntata di RadioTube, quindi vorrei riascoltarla. È una specie di intervista doppia. Bello, mi piace, ne sperimenteremo ancora. Intanto riascoltiamoci questa intervista andata in onda sempre il 7 dicembre scorso. Ne abbiamo dette di tutti i colori nella prima mezz'ora di questa trasmissione. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato del dibattito su Mission. Mi sono divertita un po' a sentire il tuo duello con Gianluca. Difficilissimo, sfidare sì, Gianluca molto, Nicoletti. Molto durissimo atto d'accusa, molto argomentato. Gianluca molto Nicoletti, straordinario, uno dei, l'ho detto, il mio conduttore preferito di Radio 24. Ma adesso parliamo di un altro pensa argomento. Pensa agli altri qua fuori che ti aspettano, quasi tutti. Ma Cruciani, non lo sa, ma non lo Cruciani. Sa, no. Vai a dirglielo. No, è faccia. L'altro mio conduttore preferito di Radio 24. Sì, ma dopo se te li elenco tutti, i direttori, vice direttore. Vabbè, andiamo avanti. Allora, voltiamo, intanto, grandi I nostri account intanto. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio. Per chi ci segue su Twitter c'è anche l'hashtag cancelletto RadioTube. Yes. Grandi ritorni. Grandi ritorni. Un clippino che è piaciuto particolarmente a Daniele. Beh, non ho detto semplicemente clippino perché per caso. È un ritorno. È tornato Vasco, è tornato con un clippino. L'inventore dei clippini. E segna, secondo me, il ritorno della musica via video. Ma finalmente. Sì, ma è finalmente. Un po' simbolico. Ma finalmente. Ma ascoltiamo come sta Vasco. Ascoltiamo come cosa sta ha detto? Vasco. Dove era, soprattutto? Ho un nuovo device. Sono il quale documento le dure sessioni di allenamento quotidiano, mattutino, per mantenersi in vita e in forma. Ecco l'osservatorio dove fu girato la scena, dei coltelli, con il mitico James Dean. Allora, Vasco e Hollywood sta benissimo e io sono molto contenta. Lui l'inventore del clippino, l'inventore del Roxy Bar. Sì, e poi sì. Andremo tutti poi ci troveremo. Da Steve McQueen a James Dean poi Ma io quando sento Roxy Bar però penso un'altra cosa. Beh no, ma tutti pensano un'altra cosa. Penso a una trasmissione leggendaria. Sì. Con un grandissimo ritorno in rete. E niente più adatto di RadioTube, perché la nostra trasmissione va a indagare i fenomeni della rete. E qual è il grande fenomeno della musica in rete in questo periodo? Ovviamente il Roxy Bar, la Roxy Bar Television TV di Red Ronnie. Buonasera Red Ronnie. Ciao, ciao. In effetti lui dice anche dal vivo Vasco quando canta Vita Spericolata, che arriva e poi ci troviamo come le storie di Luis Roxy Bar, ferma tutto, poi dice un momento, però Redroni l'ha chiuso Roxy Bar, adesso non si vende più whisky, ci sono succhi di frutta alla pera. Oh, che tristezza. No, Roxy Bar è riaperto, tu sei... fai il pazzo che sfida ogni regola precostituita, perché ti sei in gran parte autofinanziato, l'hai detto, hai venduto parte della tua collezione straordinaria, una vera e propria televisione che va in streaming dappertutto, quindi non solo in Italia, è vista in tutto il mondo, fai dei prodotti bellissimi, io sono di parte, lo dico, io ascolterei questo brevissimo frammento per far capire agli ascoltatori che non avessero ancora visto il Roxy Bar di Redroni. Sulla rete. Allora, il reportage di schiena inizia al catering. Cioè, tanto te non ti spaventi di niente. Ciao zio. Ma hai già fatto, ciao. Ma hai già fatto vedere che tu sei una che... Guarda, lui è Daddy, il mio super fonico da palco. Lui è Michele, il mio super backliner. Buonasera. Il mio angelo custode del palco. C'è la mamma, Maria, papà Rosario, Giovanni Come Pin. Papà Rosario? Qual è papà? Papà è lui, è chitarrista, sì. Un reportage esclusivo, il backstage del concerto di Emma. Allora, un reportage che parte appunto dalla mensa, dal catering. Red, quanti ragazzi ti scrivono? Perché io ho visto su Twitter impazziti tutti, non solo festeggiando questo backstage e questo concerto di Emma, facendoti appelli, chiedendoti altri cantanti come Annalisa. Sei desideratissimo dalle nuove generazioni di consumatori di musica. Non desiderano me, desiderano il fatto che un loro artista venga intervistato da me, venga trattato da me, perché il modo mio di essere tramite è quello di rivelare al meglio l'artista. Nel caso di Emma, ad esempio, è stato un successo enorme, che va contro quelle che sono le... Allora, Roxybar.tv è un qualcosa di che va contro a tutte le regole, perché le scombina, ma non va contro per andare contro, ed è il nuovo, cioè è un modo nuovo di usufruire dell'immagine televisiva, perché non è più la televisione, dell'immagine televisiva, perché la TV, l'oggetto della televisione, se ci pensi, è lontano. Cioè, la televisione è un oggetto che è in fondo alla sala, è in un angolo della sala. Invece il Roxy Bar TV te lo vedi sul telefonino, cioè l'applicazione, sull'iPhone, sull'iPad, sull'Android, sul computer, quindi è vicino a te. Allora cambia totalmente il media, cioè tu devi essere vicino. Allora se io vado in un backstage di Emma, io devo portarti con me. Farei sentire un altro backstage che però è di un altro tipo di musica, perché ascoltiamo insieme un frammento di un canale molto interessante. La televisione è più tradizionale, la musica è completamente diversa, ma ci piaceva metterli a confronto. Il tenore Marco Berti, sentiamolo. Sangue Arena, c'era un film, Sangue Arena, bello. Beh, l'arena ce la mettiamo già noi, anzi ce la mettono loro. Noi non so se dobbiamo mettere sangue. Anita, sei pronta? Che bella risata da tenore! Risata, cioè, non è mica una risata qualsiasi. Un'altra musica. Questa volta parliamo di una televisione più tradizionale, perché si vede nel televisore, ma si vede nel bouquet di Sky, è Classica, e ci colleghiamo con il direttore di Classica, Piero Maranghi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, contento di essere vostro ospite. Ma noi siamo contenti di Io vi ascolto, spesso. Siete bravi. Che meraviglia. Ma stupendo, sembrava pagato. E poi avete parlato di Nicoletti nel Pantheon di Maranghi, Nicoletti anche in quello di Marta Cagnola. Bene, sì. Nel Pantheon di Maranghi Nicoletti sta tra Simenone e Antonioni. Giancarlo. Stupendo. Piero, abbiamo ancora in linea Redroni, un esperimento nuovissimo che non è il futuro, è già il presente. la musica vicino a noi, nelle nostre mani, nel telefonino, nel tablet. Tu invece sei un appassionato di tutt'altro tipo di musica, anche se non so se ascolti anche... Sì, io ascolto anche... Ascolto Emma. Tutta la buona musica. Ecco, diciamo così. Sono un po' distratto dai fenomeni più contemporanei perché professionalmente mi sono calato in quella roba lì, ma fino ai miei 20-25 anni ho mangiato tutto. Diciamo. Ieri. Piero, come si può parlare oggi, nel 2013, quasi 2014, di musica, diciamo così, con una definizione un po' generica, il più larga possibile, appunto classica? Ma si fanno due cose, noi facciamo due cose, cioè raccontiamo, diciamo, e mostriamo le grandi performance, la straordinaria cucina internazionale, mi verrebbe da dire, cioè quello che succede a Berlino, alla Scala, alla Fenice, all'Arena, a Parigi, e poi invece facciamo un grande sforzo con i mezzi che abbiamo per raccontare le umanità, i personaggi, le storie, anche storie normali, per far vedere quello che normalmente non si vede quando si è in teatro. Sembrava un po' matta ad avvicinare Emma con Roxy Bar, e invece c'è l'umanità, persone. Ci sono le storie che vengono fuori. Ma sì, no, straordinario. In questi giorni abbiamo lanciato una serie che si chiama Talenti ed è dedicata a tutti gli studenti dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, per esempio. E lunedì è andato in onda una puntata di un bambino di 11 anni che fa la scuola di danza, è venuta fuori una storia stupenda, trovo. Adesso ne andrà in onda una su una sarta, ma questo lo facciamo un po' dappertutto, lo facciamo anche con i grandi, però quelli che poi sono capaci un po' di parlare, perché il problema nostro è quello di trovare poi dei divulgatori. Molto spesso gli artisti sono bravi sul palco e poi dopo diventano, come dire, incapaci di raccontarsi. Mi piacciono questi due. Sì, perché appunto il racconto degli sperimentatori, il fatto che dietro a dei successi ci siano delle storie di persone, e raccontare le persone, secondo me, è un buon modo anche per avere successo. E le due cose si tengono. Io vorrei riavere nelle prossime puntate ancora qualche volta Red Ronnie e Piero Maranghi, perché mi piace molto parlare di musica in televisione e uso la televisione nel e farlo senso alla radio, e ovviamente. Farlo alla radio. Tutto assieme abbiamo messo la televisione così come concetto, perché non è detto che sia più nel televisore, ma ce l'abbiamo in mano. Mi piace molto questa cosa. Grazie mille a Red Ronnie, grazie a Piero Maranghi. Complimenti, buona musica. È finita perché quando ci si diverte, come sempre, il tempo passa in fretta ed è finito questo primo meglio di Radio Tube. Te la saresti mai aspettato di fare un meglio di? Ma senti, siccome il 2013 è l'anno della social TV, sì, ma a noi ci tengono anche nel 2014? Adesso mi stai facendo venire il dubbio. No, dai. Almeno un altro lo dobbiamo fare di meglio di. Non solo facciamo un altro meglio di, ma io al limite occupo lo studio. E almeno fino a Sanremo. Almeno fino a Sanremo, prepara le valigie. Sono pronto, nato pronto. Allora, salutiamo gli ascoltatori, intanto auguriamo buon anno, sì, perché dai, ci risentiremo, come si suol dire, nel 2014. Che bello. Tanti auguri di buon anno a tutti. Buone feste, buon anno, siate buoni. Alla prossima settimana.